Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max non si spiega, fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.